prima edizione. Avanti, vado a farmi curare, vado a farmi le cure settimanali, controlli. Eccolo, ancora il tormentone di questi giorni. Vasco Rossi che si sposa, 6 e 16 minuti. Cominciamo prima edizione, buona giornata da Anna Migliorati. Non ho cambiato idea sul matrimonio, ma la burocrazia e le leggi non riconoscono gli stessi diritti a una donna che vive con te da 25 anni se non è sposata. Vasco Rossi spiega ancora una volta sul suo profilo Facebook perché ha deciso di sposare in estate la sua compagna. La notizia delle nozze ha scatenato un'altra ridda di voci sullo stato di salute di Vasco, che, come sentivamo, ha ironizzato in uno dei suoi clippini. E allora sentiamolo integralmente. Avanti, vado a farmi curare, vado a farmi le cure settimanali, controlli per vedere se sono sano o se ho un tumore, perché tutti vanno a dire che ho un tumore, andiamo a vedere se ce l'ho. Se ce l'ho, buongiorno, ecco qua la sala operatoria, mi verrà tolto il tumore di oggi. Ciao carissimo, questo è il divano di tutti. Grazie. Allora, sei fantastico. Adesso vi saluto perché devo farmi operare di tumore, voi sapete, no, tolgo un tumore alla settimana. Eccolo, Vasco Rossi. Allora, col tormentone di Vasco Rossi abbiamo aperto questa mattina prima edizione, c'è il traffico e poi, come sempre, le prime pagine dei giornali. Prima edizione. Prontissimi con le pagine dei quotidiani oggi in edicola. Allora, aperture diverse, ma il tema è quello della crescita da una parte, dall'altra lo scontro tra il premier Monti e i partiti. Allora, Corriere della Sera, investimenti, il piano di Monti, il premier all'Unione Europea dice per 3 anni fuori dal calcolo del deficit. Esentare per 3 anni le spese per investimenti del calcolo del deficit è la proposta all'Unione Europea per rilanciare la crescita. E poi l'altro tema che a questo si intreccia, Fornero sugli esodati, 2 anni di copertura per 65.000 posti, sindacati contro il ministro del welfare. Così l'apertura che sceglie oggi il Corriere della Sera, che a centropagina mette invece l'indagine sui fondi per acquisire Anton Veneta, perquisito dalla finanza al Monte dei Paschi, l'accusa è di aggiottaggio. Investimenti, il piano italiano, anche la scelta del Messaggero, Monti per 3 anni fuori dal piatto europeo e scontro sugli esodati, e il Messaggero aggiunge Passera sblocca intanto i crediti alle imprese, un'operazione da 20 miliardi di euro che ha l'obiettivo di dare ossigeno alle imprese, e quello che ha lanciato il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, che starebbe mettendo a punto 2 decreti per sbloccare i crediti vantati dalle aziende nei confronti della pubblica amministrazione. Così il Messaggero. E allora eccoli i prestiti alle imprese fermi a crescita zero, questa è l'apertura oggi del Sole 24 Ore, che proprio su questo mette l'accento, il rapporto di Banca Italia che dice i flussi alle economia ripartiranno solo a fine 2012, in marzo erogati 10,8 miliardi in meno rispetto a febbraio, e sempre più credit crunch, scrive il Sole 24 Ore, a marzo la crescita dei prestiti alle imprese è sostanzialmente pari a zero. Allo stesso tempo il tasso di crescita per le famiglie si attesta a più 2,2% contro un 2,7% tendenziale a febbraio. Altro clima in Germania, dove le imprese italiane attraverso le controllate ottengono prestiti bancari oltretutto a tassi fino a 3 punti più bassi. Così oggi il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, dove in prima pagina c'è anche qui la Guardia di Finanza al Monte Paschi con 4 indagati, la Procura di Siena indaga per aggiottaggio su Anton Veneta, quell'oscuro aumento di capitale all'origine dell'inchiesta, il commento e l'analisi firmato Stefano Elli e Angelo Mincuzzi. C'è un altro elemento su cui il Sole 24 Ore pone l'accento ed è ancora la Grecia che, dove sembra non trovare pace le consultazioni, probabilmente non si arriverà ad un nuovo governo dopo il voto. E allora Atene e Madrid deprimono i mercati, scrive ancora Sole 24 Ore, spread a quota 424 e la Grecia verso nuove elezioni. Così il Sole 24 Ore. Temi più politici sono quelli invece scelti dalla Repubblica, che titola così la prima pagina: PDL parte l'assedio a Monti, polemica per l'ancora per la frase sui suicidi e stop alla riforma della giustizia. E c'è sulla Repubblica quest'oggi un'intervista a Bersani: il candidato premier lo scegliamo noi, così dice Bersani questa mattina, intervistato dalla Repubblica. L'intervista è nelle pagine interne, come sempre ve lo ricordo ogni mattina, è solo una carrellata quella che facciamo a quest'ora, poi avremo più tempo attorno alle 7:20 con Alessandro Milan. Nel frattempo però l'intervista su Repubblica di Bersani a pagina 9 recita così: il centro-sinistra non basta, ma il premier stavolta tocca al PD, noi rappresentiamo anche i moderati. Ed è un messaggio al centro quello che lancia Bersani, lo sta facendo da tempo, lo fa anche questa mattina nell'intervista rilasciata alla Repubblica, e dice: Casini scelga tra noi e il polo regressivo. E sul futuro del centrodestra Bersani sostiene: il centrodestra non sarà Montezemolo Passera, ma un misto di Le Pen, Sarkozy e Lega. Così vede il futuro del centrodestra il segretario del PD Bersani. E per quanto riguarda invece il suo schieramento, uno schieramento di sinistra o di centrosinistra, così Bersani dice: non puntiamo mica a rifare l'Unione, ci rivolgiamo a intellettuali, autorità morali e società civile, ma il premier lo indicheremo questa volta noi. Così Bersani sulla Repubblica. La Repubblica, dove anche qui c'è ovviamente la paura per la Grecia, vola lo spread, meno soldi ad Atene. A centro pagina lo shock a Bologna, suicida il leader del PD Maurizio Cevenini, si ritirò dopo un malore dalla corsa del sindaco. Pensate a mia moglie e a mia figlia, il messaggio che ha lasciato, il suo ricordo, il peso della rinuncia, il commento di Carlo Galli questa mattina sulla Repubblica. La stampa anche qui la tensione la punta più sul tema politico, e quindi PDL Monti, alta tensione sulle colpe della crisi, l'apertura scelta dal quotidiano torinese, che aggiunge: c'è un documento di 42 esponenti del Popolo della Libertà, escluda le nostre responsabilità sui suicidi, chiede il PDL a Monti, Berlusconi chiama Palazzo Chigi dal premier, elogi al predecessore. Così su La stampa che ci ricorda anche che nel frattempo è arrivato il via libera in commissione alla Camera per il primo taglio e rimborso ai partiti, sarà tagliato del 50%, ma è solo il primo passo. Sulla Stampa però c'è un'immagine questa mattina che farà discutere, quella del segretario americano Hillary Clinton, senza trucco, con gli occhiali. Hillary, addio al trucco. Ho l'età per decidere. La Clinton sceglie il look naturale. Ironie da destra. Lei ribatte: a 64 anni faccio come voglio. Così dice Hillary Clinton. Basta trucco. Io sono così. Ho 64 anni. Sono un segretario di Stato. Posso decidere cosa fare. E ripeto, questa sarà una notizia che comunque questa mattina magari qualche discussione ve la susciterà. Altra notizia che farà discutere dal Corriere della Sera, la leggiamo, la trovate un po' su tutti i quotidiani: il presidente americano Obama, che come avete sentito anche in GR24, ha detto sì ai matrimoni gay, la svolta della Casa Bianca su una materia che divide gli americani, che peraltro sono in piena campagna elettorale. E poi ancora un'iniziativa invece del governo americano: un testamento per cancellare le proprie tracce dalla rete. Quando non ci saremo più, potremo decidere cosa fare delle tracce che nella nostra vita abbiamo lasciato in rete. Un testamento per cancellare le proprie tracce. Così una proposta americana. E allora i titoli, i temi sono molti, però dobbiamo parlare anche di noi. E allora io saluto Alessandra Tedesco, buongiorno. È caduta la linea, la ritroveremo tra poco. La nostra Alessandra Tedesco, già vi anticipo, Radio 24 al Salone del Libro. Allora vabbè, facciamo una piccola pausa, riepiloghiamo le notizie di oggi e poi vedremo di recuperare la nostra Alessandra Tedesco. Prima edizione. È inchiesta di Radio 24 con lo tsunami del voto amministrativo. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è il 10 di maggio. Dalle elezioni amministrative emerge nettamente il successo del Movimento 5 Stelle, che fa riferimento a Beppe Grillo. Questo è dunque un viaggio dentro questo movimento. Il reportage di Raffaella Calandra. Dall'insetto, voce della coscienza di Pinocchio, al leone marino sudamericano, dal grillo all'otaria, la metamorfosi prosegue come il cambiamento del movimento a 5 stelle che dopo le ultime elezioni, dopo aver conquistato il primo sindaco e nuovi ballottaggi, fa un ulteriore salto in avanti, annuncia di puntare ora al Parlamento e fa sentire la sua voce anche per la corsa al Quirinale. Se il movimento farà boom, il prossimo presidente non sarà un'emanazione dei partiti e neppure delle banche, scrive sul blog Beppe Grillo, che dice di essere rimasto con la bocca aperta come un'otaria, appunto, alle parole del capo dello Stato che alla domanda sul boom del movimento ha rimandato a quello degli anni 60. Abbiamo da festeggiare da una parte e dall'altra anche da preoccuparci, fra virgolette, per la responsabilità che ci hanno dato queste persone. Anche se al ballottaggio lui non è arrivato, non si aspettava un successo a due cifre Paolo Putti, candidato genovese, che esclude ogni indicazione di voto futura, e se Bologna tenne a battesimo il movimento col V-Day di 5 anni fa, è ancora in un Emilia-Romagna laboratorio politico che i grillini arrivano al secondo turno in 3 casi su 4, compresa la Parma degli scandali e delle pentole con Federico Pizzarotti. Ha spianato la strada anche agli altri, non solo a noi, perché altrimenti veniamo sempre inevitabilmente affiancati a quello che è la protesta. Noi siamo soprattutto proposta. Per festeggiare il traguardo di Comacchio, su Twitter Grillo, in un lapsus che la rete non gli perdona, scrive che sono il primo partito. È un altro tabù che cade. Il candidato Marco Fabbri non ci sta. Io Comacchio siamo la prima forza politica, sì, che mi pare il termine più opportuno. Io sinceramente ragiono ancora sulle liste civiche a livello comunale, come prescrive il movimento, insomma. Non so se ci sarà un'evoluzione. Qualche anno di esperienza, dalle prime piazze alla poltrona di consigliere regionale emiliano, rendono più diplomatica la risposta di Andrea De Franceschi. Non è che noi ci vergogniamo a chiamarci partito. Cioè, non è più un tabù per voi quella parola, partito? Non l'è mai stato. Beh, insomma. Non è mai stato un tabù. Sicuramente l'Emilia Romagna ha probabilmente una mentalità più aperta nei confronti anche delle novità, e forse laddove c'è stata anche una situazione di benessere e di buon governo che ormai è belle che dimenticato, la reazione dei cittadini nei confronti di chi prima aveva amministrato bene, poi li ha così traditi, ha determinato uno spostamento. La metamorfosi del movimento a 5 stelle dunque è destinata a proseguire. Era Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24, dove questo reportage sarà naturalmente più lungo, sentiremo anche nuove voci sul successo del Movimento 5 Stelle. Daniele Biacchessi, allora 6:38 minuti, abbiamo ritrovato la nostra Alessandra Tedesco, buongiorno. Buongiorno Anna. Si comincia oggi al Salone del Libro di Torino, un appuntamento ormai consueto, ma che ogni anno in realtà qualche novità la riserva. Sì, qualche novità la riserva sempre, naturalmente, perché ci sono scrittori nuovi, perché ci sono editori che propongono le novità. Beh, devo dire che quest'anno il tema è assolutamente nuovo, fra virgolette, nel senso che il Salone del Libro, 25esima edizione, è dedicata alla primavera digitale. Sono ormai anni che anche al Salone del Libro si parla di ebook, però finalmente è stata dedicata un'intera edizione a questo tema, anche se l'ebook, lo ricordiamo, ricopre solo l'1% del mercato dei libri, è comunque una realtà alla quale tutti gli editori si stanno interessando, dai grandi ai piccoli. Ecco, per i piccoli c'è come sempre anche spazio lì al Salone del Libro. Assolutamente sì, infatti per chi viene al Salone del Libro è anche un'occasione per trovare libri di piccoli editori o addirittura piccolissimi. C'è proprio una sezione del Salone del Libro che è dedicata al cosiddetto incubatore, dove ci sono cioè gli editori che sono nati ultimamente, negli ultimi mesi o magari nell'ultimo anno, e ancora, come dire, non hanno la forza per proporsi su tutto il mercato nazionale, e al Salone del Libro è possibile conoscere loro e le loro proposte. Ci sarai anche tu anche quest'anno, ci sarà anche Radio 24 anche quest'anno, quindi avremo modo di raccontarvelo questo Salone del Libro. Qualche anticipazione come su Radio 24, dove lo troveremo? Allora, innanzitutto voglio dire agli ascoltatori che potete trovarci nel padiglione 2 accanto alla Sala Blu, da dove trasmetteremo una serie di trasmissioni in diretta, come sempre con la presenza del pubblico. Vi voglio anche ricordare che quest'anno i paesi ospiti sono due, la Spagna e la Romania, quindi ci sarà l'occasione di incontrare diversi scrittori spagnoli, da Javier Cercas a Enrique Villamata, Ildefonso Falcones e così via. Per la Romania non abbiamo nomi tanto noti, sfido chiunque a trovare un autore rumeno famoso in Italia. Ce la farai, no, ce la farai. Per scoprirli. Ce la farai, ce lo racconterai. Allora, per te oggi comincia una lunga giornata anche per Radio 24 per raccontarvelo questo Salone del Libro. L'appuntamento, davvero, ripetiamolo, chi volesse venire a trovare Radio 24. Allora, padiglione 2 accanto alla Sala Blu, sul nostro sito www.radio24.it trovate l'elenco di tutte le trasmissioni che vengono trasmesse appunto in diretta dal Salone del Libro di Torino. Grazie ad Alessandra Tedesco, allora buona giornata. Grazie a voi, ci sentiamo più tardi. E nel frattempo l'avete sentito già con la nostra Alessandra Tedesco, la musica che ci porta invece a Londra, o perlomeno quasi a Londra, ci siamo quasi alle prossime Olimpiadi. Perché? Perché oggi verrà accesa la FIAC, la Olimpica, e quindi partirà ufficialmente la corsa verso Londra 2012. Ma proprio per la Grecia il cammino si fa sempre più accidentato, e allora causa ancora una volta la crisi. Il nostro Dario Ricci ad Atene ha sentito proprio il presidente del Comitato Olimpico Greco nel giorno dell'accensione della fiaccola. Il più grande problema è il problema finanziario. Senz'altro il governo e lo Stato ha diminuito i soldi che dava per lo sport in generale. Questo vuol dire anche che per lo sport di alto livello i soldi sono mancati. E noi come Comitato Olimpico, che abbiamo la responsabilità dello sport di alto livello, non abbiamo avuto aiuto dalla parte del governo. Abbiamo dovuto lavorare per ricevere dei sponsor, però in momenti difficilissimi dell'economia è difficile anche trovare le società che danno soldi per lo sport di alto livello. Però abbiamo avuto successi e i nostri atleti non sono rimasti senza soldi. Questa situazione politica dopo queste elezioni potrà avere altre conseguenze sul cammino verso Londra, e se sì, quali? Questa incertezza politica non aiuta, però per la squadra di Londra non cambia qualsiasi cosa. Questo che ho paura che può cambiare sono le cose per il futuro dello sport greco. Ho paura che i soldi sarà una situazione ancora peggiore. Ho paura che per Rio 2016 i problemi saranno grossissimi, molto più gravi di quelli che abbiamo avuto adesso. Così l'intervista del nostro Dario Ricci al presidente del Comitato Olimpico Greco. Voliamo dall'altra parte del mondo, andiamo invece negli Stati Uniti, dove ieri sera è arrivata una svolta dal presidente americano Obama. I have to tell you, as I said, I've been going through an evolution on this issue. Allora, ci ho riflettuto, ho concluso che per me personalmente è importante andare avanti e affermare che coppie dello stesso sesso debbano potersi sposare. Lo sentite, sono le parole ieri sera del presidente americano Obama, che hanno già provocato un terremoto politico, una storica svolta a favore dei matrimoni gay in piena campagna elettorale. Obama ha detto, senza mezzi termini, di voler ascoltare le sue figlie e la moglie, di andare avanti sulla sua strada. E allora che succede? Che terremoto politico dobbiamo aspettarci negli Stati Uniti? Secondo i primi analisti, con questo gesto Barack potrebbe essersi giocato in un colpo solo il voto di stati cruciali e ultramoderati come l'Ohio e la Virginia. D'altra canto, però, c'è un pezzo d'America che sembra seguirlo, almeno sui social network. Oggi è un giorno storico, di nuovo orgoglioso del mio presidente, sono solo alcuni dei messaggi su Twitter per Obama in queste ore. Dall'altra parte, però, ci sono le reazioni imbarazzate dello dello staff di Mitt Romney, perché il Partito Repubblicano sul tema dei diritti agli omosessuali si trova quantomeno spiazzato. L'ex governatore del Massachusetts, solo una decina di giorni fa, era stato costretto a scaricare uno dei suoi portavoce apertamente gay dopo gli anatemi della destra evangelica ultraconservatrice, e ora si è limitato a dire che il matrimonio in sé è un'unione tra una donna e un uomo. Alla sua destra è scoppiata la protesta. Fox News, la TV preferita dai fans dei Tea Party, da ore titola: Barack Obama dichiara la guerra al matrimonio, così si perde per strada i moderati. E almeno da questo punto di vista, per Obama è un punto a favore nella campagna elettorale, perché ha di fatto fatto esplodere le contraddizioni interne ai suoi avversari, da sempre divisi tra oltranzisti e centristi. Comunque la pensiate, sicuramente è una svolta storica. Continueremo a parlarne in GR24. Ora invece c'è il traffico, poi torneremo a parlare di cose tutte italiane. Prima edizione. 6:47 minuti, ieri il faccia a faccia Fornero sindacati, ne è uscito un nuovo scontro sui lavoratori esodati, ve l'abbiamo raccontato in GR24, continueremo a raccontarvelo. In serata ha parlato anche il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, che ha garantito che già da fine anno il paese tornerà a crescere, il PIL sarà non più negativo dalla fine di quest'anno. Poi ha aggiunto: se da 10 anni il nostro paese non cresce o cresce molto meno degli altri paesi, le responsabilità sono molto diffuse. E detto questo, diciamo che c'è un gran pezzo d'Italia che va e continua ad andare bene. Così Passera, ottimista. Intanto oggi 10 maggio è la giornata nazionale contro la precarietà, presidi, cortei, azioni, luoghi simbolo sono previsti in tutta Italia, i timori di tensioni peraltro sono molti, e allora noi vogliamo raccontarvelo in un altro modo la giornata, vogliamo raccontarvi chi è il precario italiano, e per farlo io saluto il responsabile ufficio studi della CGA di Mestre, Paolo Zabeo, buongiorno. Buongiorno a voi. Chi è il precario italiano? Vogliamo finalmente raccontarlo. Voi avete cercato di tracciare un identikit in questi mesi. Sì, è da anni sostanzialmente che noi rediciamo questa ricerca, questa analisi, cercando di capire le caratteristiche, le specificità di questo mondo, insomma, che è estremamente variegato. Premesso che non è facile dimensionarlo, perché ci sono aree grigie molto diffuse, e perché insomma non sempre chi ha magari una partita IVA lavora in maniera magari è proprio precario. Detto tutto questo, noi stimiamo che insomma l'esercito dei precari oscilli tra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni di lavoratori. E detto questo, poi ci sono, se andiamo ad analizzare, delle sorprese molto importanti. Noi insomma siamo tentati a pensare che sono prevalentemente giovani, in realtà non è così, perché gli under 35 sono più o meno il 43%, mentre coloro che hanno un'età superiore ai 35 anni sono il 57%. E sopra i 35 anni proprio totale, giovani non si possono dire, esatto, perlomeno dal punto di vista del lavoro. Esatto, in più sono concentrati prevalentemente nel mezzogiorno, quasi il 35%, mentre nel centro-nord abbiamo incidenze sul totale abbastanza contenute, ad esempio nel nord-est non supera il 19%, poi uno su tre addirittura lavora per la pubblica amministrazione, per lo Stato in generale, anche questa è una sorpresa, soprattutto forte concentrazione nella scuola, nella sanità, nei servizi. Che titoli di studio hanno i precari? Ecco, anche qui questa è una sorpresa che emerge praticamente da questi dati, i laureati ad esempio, noi insomma l'identikit tipo è quello che diciamo così, il precario abbia un livello di istruzione molto elevato, quindi la laurea, in realtà non è così. Di oltre 3 milioni e 300 mila, insomma, i laureati sono solo il 15%, mentre il 46% ha un diploma di media superiore e addirittura il 39% non ha nessun titolo di studio o al massimo la licenza media. Quindi anche qui sostanzialmente è importante, soprattutto per gli addetti ai lavori, ma anche per chi fa politica e che quindi deve affrontare e risolvere i problemi di questa realtà, sapere chi ha davanti. Perché, ripeto, nella stragrande maggioranza dei casi noi abbiamo persone che non hanno, o meglio, hanno un livello di scolarità molto basso. Questo il mondo variegato dei precari che oggi vedremo in piazza porterà le sue istanze. Nel frattempo abbiamo cercato di raccontarvelo anche così. Grazie a Paolo Zabeo, responsabile ufficio studi della CGA di Mestre, per essere stato con noi. Grazie, buona giornata anche a voi, buon giovedì. Noi ci risentiamo già tra pochissimo con GR24 e con le ultimissime notizie. Buona giornata.